insieme a te, insieme a te, insieme a te. Da Marco Roma, buongiorno! Era un po' basso stavolta Marco Roma. Però lui ci alza l'umore sempre. Buongiorno anche a te, Marco. Buongiorno. Mi sembrava molto scarico di ispirazioni, però sempre carico di umore. Sempre cioè, non ha fatto allusioni, no, tipo le rose, i fiori di ciliegio. Fiori rosa, fiori di pesco. Questa atmosfera di primavera che arriva. Allora, già. Oggi abbiamo Roberta Giallo che non ha bisogno di presentazioni. Oh sì, non lo so. Sì, ti prego. Sì. Beh, la presentazione, se poi ti impegni, è bella. Tra l'altro, dopo mi ridate il numero. Ah, è scritto là. 333, così lo scrivo 180, sui miei social. No, esatto. 333-180-94-94. Potresti metterla come risponditore automatico di Instagram e mandate un audio a Radio Città Fugico. Potrei fare questo? Sì, come... sì. Allora, ciao e benvenuto. Questo è un messaggio automatico. Per informazioni professionali, richieste, spettacoli, proposte, scrivete, eccetera. Augurandoci di essere stati utili con questo messaggio. Fantastico. Comunque tu c'hai un team di social media manager behind ma you, spaventoso. Ma allora la verità è che io mi sdoppio. E poi ho il robottino che mi aiuta. Ho impostato questo sotto. E quando c'è bisogno di fare le pulizie di casa, c'è la Fernanda, giusto? No, ci sono i robottini anche per quello, sai, quelli che puliscono, aspirano, non alla fantozza. Secondo me te sei una di quelle che ha tipo una di quelle dominatrix che ha gli schiavi che ti scrivono. Oh, beh, voglio venire a pulirti casa. Allora, gli schiavi effettivamente ce li ho, solo che non mi piace schiavizzare. No, sei troppo. No, sembra, ma non è così. Però me lo proiettano questa roba. Infatti, mi domando perché. È che oggi basta una scarpa un po' strana e subito vieni ad esempio additata. Uno mi ha detto ma tu, io facevo una battuta quella volta che avevi tutto il coso di pelle attorno al collo eccetera. Ma secondo me guarda scherzo, cioè, no ma è vero, quella era molto dominato. Guarda, ti dico anche per ridere, io ho delle scarpe car armato che per me sono veramente antisesso proprio per... Eppure qualcuno invece, nel momento in cui magari facevo un po' anch'io la criticona, un po' quella col pudore, mi dice ma come, proprio tu che c'hai quelle scarpe? Dico, ma scusa, ma quelle scarpe che c'ha? Non è che la scarpa col tacco che... No, anche quelle scarpe... Insomma, dipende poi come la porti. Evidentemente la porti molto bene, molto... Grazie. Molto dominating. Oh ragazzi, me ne farò una ragione. Ma infatti voglio dire, quando qualcuno è sexy, cioè può capito, fare... c'è poco da fare. Allora, Roberta Giallo è una cantautrice, scrittrice e performer teatrale. Inizia la sua carriera aprendo il concerto di Sting in Piazza del Plebiscito a Napoli in diretta su All Music. Stiamo parlando del 1974. 2006. Guarda, alla fine siamo anche nei 2000, dai. No, ma infatti, cioè una giovanotta. Viene notata da Mauro Malavasi che la presenta a Lucio Dalla, dopo poi ce lo racconti. Esattamente. Tu, in realtà ce l'hai già raccontato tipo 3 o 4 anni fa. Salutiamo Fedra che mi ha introdotto a Roberta Giallo e da quel momento è stato amore a prima vista. Cosa grazie, c'è? No, io taglio tutto. Nel 2019 debutta sul grande schermo nelle vesti di attrice protagonista nel film Il Conte Magico. Cavoli, questo l'ho mancato. Perché comunque non ci facciamo mancare niente, come dico. No, lì è stata, guarda, proprio veramente pura fortuna. I due registi, Diego Schiavo e Marco Belluso, mi hanno chiamata. Secondo loro ero adatta per quella parte. Tant'è vero che la protagonista femminile del film si chiama proprio Dori Giallo, vedi. Quindi fantastico. Costruita quasi su di me, quindi non ho fatto neanche tanta fatica, devo dire. Ho capito. E poi ho vinto anche il premio come miglior attrice protagonista a un festival di San Pietroburgo, capito? Mi è piaciuta ai russi, tra le varie, capito? Anche oddio, abbiamo... Con quel film. Qualcuno si è manifestato con quel film. Ah sì, una foto di una dominatrice in ascolto. Aiuto! Aiuto! Chi è che te l'ha mandata? Ah, Scazzarola! No, dai ragazzi, aspetta! È arrivata una coscia! Hai capito? Adesso me la... Al 333-180-94-94 non è un canale porn. Comunque devo dire che siete è veramente arrivata. Pensavo scherzassi. No, non scherzavo. Ma era poi tra l'altro... Era da Marco Roma? Non è Marco Roma. Era la coscia di Marco? Non è Marco Roma. Ma non ci posso credere. Detto questo, a un anno dall'uscita del singolo delle sfumature Goth Cold Winter, Bijou Noir ritorna con un nuovo inno pensieroso. È bello, no? Invitare una cantante in radio e poi farle sentire un pezzo di qualcun altro. Beh, ma bisogna informarsi, no? Già io mi informo poco da sola, almeno mi informate voi. E allora, Bijou Noir ritorna con un nuovo inno pensieroso, Enough Cold for a Lifetime. Augustus Watkins ci porta in un tema invernale da bravo abitante del Minnesota. Il testo di apertura della canzone dice: l'inverno è arrivato all'improvviso senza preavviso, così come questa visione delle cose a venire nel primo singolo dell'imminente EP di Bijou Noir, Wild Wonders, che sarà pubblicato quest'estate per Give Take. E adesso ci andiamo ad ascoltare Enough Cold for a Lifetime. Se non ci piace poi lo abbassiamo. Senti eh? Che bel inglese. Winter came suddenly and without warning, as all of my thoughts turned gray. So the good seed died among the starving weeds, while all hope drifted away. I'd like to tell you all of my secrets, but I don't know if you'd want to hear. When the brutal cold hits your tender human face, it's like Mother Nature holds a grudge. To tell you all of my secrets, but I don't know if you'd want to hear them. Sono più simpatici Pio e Amedeo. Secondo me sei più simpatico tu. Allora un abbraccio alla grande Roberta da Gianni da Verona. Grazie Gianni Super Gianni, io lo chiamo così. Comunque mi è sempre piaciuto abbassare e alzare le canzoni mentre si parla. Infatti secondo me tu sei proprio un DJ. A questa tecnica. Sei DJ. Sì, vedi questa com'è tecnica. Felice. Sì. Poi è felice. No, io guarda. Sono felice quando si cazzeggia, con una puntata così. Beh, con me, felice. Guarda, con me possiamo anche non passare niente, lo diciamo esatto. Solo cosa devo no, ma infatti ascoltare. Adesso ti devo sfidare subito a duello in aiuto. Questo modo. Sarabanda? Sì, sì. Ah, sì? No, sì, sì, no, ti sfido a duello perché hai portato l'oculele, no? Ah. Ah no, intanto volevo ringraziare Jay di Cocaine qualcosa che ci ha mandato questo pezzo dall'America, non so perché, mi scrive ciao Stefano, mi dice hi Stefano, wow, I'm sending you this for your radio. Ma c'entra qualcosa Radio Peng? Può darsi, forse hai ragione, forse chissà che non siamo ancora su Radio Peng. Dovremmo essere ancora su Radio Peng. Io un po' che non sento Radio Peng, perché speriamo, comunque speriamo. Andate su Radio Peng. Si chiama Cocaine Opera questa. Tra questa, l'altro voi citavate Sarabanda, io tra i miei follower ho proprio l'uomo gatto. L'uomo gatto. Quindi dovrei farmi aiutare andare da lui nel caso. Assolutamente. Perché, lui sì che era bravo. Allora, la mia sfida è questa: tu hai un ukulele con te e io vorrei fare che tu mi ripetessi. Anzi, dopo poi tolgo tutta la. Cioè, quando dobbiamo stare già insieme, sa di cosa sì, difficile, però allora, ci proveremo. Innanzitutto, esatto, devi fare questa cosa qua. Cioè, ascolta bene. Sì. Sei pronta? Solo la parte 2, coxo spaziale. Qua ci siamo. Ah, non riesce a fare due voci in contemporanea. No, adesso devo trovare. Oh, ragazzi, però sto posso farti il coro. Guarda, io. Dai, coxo spaziale. Coxo spaziale. Oh, ragazzi, in 3 secondi l'ho fatto. Wow, adoro. Il mio ukulelino stonato, ecco. Che non suono anche da un po'. Adesso un'altra cosa. Se, no, senza ukulele devi dire. Sì. Tra l'altro, un ukulele blu bellissimo. Oddio. Io faccio più, guarda, più facile improvvisare. No, devi solo dire: sono Roberta Giallo e questo è Cox Spaziale. Ma meraviglioso. Così ti posso registrare. Allora lo dico bene questo. Dai. Sono Roberta Giallo e questo è Cox Spaziale. Che wow, perché vado meglio con l'improvvisazione, se fantastico. Devo ripetere, bellissimo, grazie. Bellissimo, bellissimo. Ce l'hai Stefano, poi se volete ve ne faccio più lingua, dico Stefano Pasquini con altri mood. È un uomo molto intelligente. No, vabbè, non c'è Mia bisogno. È la regina della trasmissione, se volete. No, io ci potresti fare un sacco di jingle. Io sì, se volete. Potremmo fare una puntata di jingle, Stef. Ammetto di aver tenuto un audio di una studentessa che mi fa i complimenti come artista, allora no, me lo sono tenuto. Che cosa romantica. Romantica. Altro è una roba che ogni tanto hai bisogno vabbè, di. Ma gli audio non è che. Guarda, che gli audio li teniamo tutti quelli che ci piacciono. Sì. Sì. Pensavo beh, c'è quel feticismo ormai delle. Poi ci sono quelli pallosi che ti mandano gli audio di 4 minuti. Comunque Marco Roma, sappi che noi stiamo archiviando tutti i tuoi audio e faremo una compilation. Faremo una mostra. La prossima campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko, noi metteremo in palio primo premio un CD dei Best of Marco Roma. Bellissimo. Senti, io qui ho tre pezzi e ne vogliamo sentire uno oppure vogliamo parlare di che cosa? Io non ho capito, dunque c'è un nuovo album, siamo allora, in ritardo, ragazzi. Per presentarlo, era l'anno scorso, cioè ne fai allora, uno bravo. Dietro l'altro, per cui allora io ormai non sto più nelle tempistiche della promozione normale perché escono mille robe in contemporanea, ma soprattutto c'è una vita, quella del live, che magari non è pubblicata ma continua a tirar fuori cose, no? Ah, certo. Cioè, dal cappello magico, però siamo qui. Io, guarda, voglio essere altruista. Dai, questo giro. Sì, altruista. Quindi, anziché farvi ascoltare prima dei brani miei, cioè io sono una cantautrice, io farei ascoltare come primo brano un brano di cui sono coautrice, però bisogna essere onesti, il primo autore è Paolo Bonazza in arte Mediterraneo, che mi ha proposto di cantare un suo brano e io dopo anni che ricevevo proposti come interprete non avevo mai accettato, ma questo brano mi ha detto qualcosa, ho detto ma sì Paolo, facciamolo. Poi ho coinvolto un altro artista, mio amico, il cantautore Malavoglia milanese, perché era un duetto e quindi è venuta fuori Vento, non l'ho arrangiata io, insomma non l'ho prodotta io, perché poi quindi non ho seguito i lavori, mi sono lasciata trascinare da questo vento e da questa produzione, certo. Quindi gli interpreti sono Giallo e Malavoglia, il brano diciamo è di Mediterraneo e anch'io ci ho messo qualche pennellata di giallo e la produzione Miralup, e questa è Mediterraneo, che comunque adesso mi sembrava il nono posto adesso sugli emergenti, no sulle radio, sì, radio indipendenti, scusami. Ok, noi siamo una Vento si chiama. Questo si chiama Vento ed è il primo che mi hai spedito. Credo che sia il primo, poi se parte un altro brano ve lo dirò alla fine. Comunque Vento, ciao Paolo, ciao Mala. Ciao Paolo, ciao Mala, proviamo questo vento suonato direttamente dal fantastico. E la prima voce che sentirete non è la mia, ma quella di Malavoglia, perché sennò dice Roberta Giallo canta da uomo, che potrebbe essere. Potrebbe essere possibile. Una trovata. Sentiamo un po' se parte. Sì, parte lui. È lui. Vedi l'acqua. Tu l'hai mai provato? Provalo a chiamare. Se non l'hai vissuto non lo puoi raccontare. Vento, questo sentimento che mi spazza via e mi fa volare alto senza compagnia. Mi manda in confusione, poi mi sposta altrove. Ti domandi ancora perché io abbia il fiammento. Lo vorrei fermare, ma è solo una bugia. Ma da dove viene tutta questa energia? Questa voglia matta in mezzo a questa folla. Solo i nostri occhi sono uniti come colla. Io sono il vento e lo sai. Seguimi e non ti pentirai. Ti porterò dove vorrai. Foglia d'autunno diventerai. Se lo vuoi. Le mie scale, mi rimbocca le coperte, non si può fermare. Nei miei occhi sento ed è già mattino. Ho la sensazione di essere quasi un burattino. Vento, siamo 1100, quelli senza nome, quelli che hanno provato questa situazione. E non sono solo con questo sentimento. Un nome non ce l'ha, ma io giuro che lo sento. Lo vorrei negare, è solo una bugia. Ma c'è questa forza che mi spazza via. Questa malavoglia in mezzo a questa folla. Solo i nostri occhi sono uniti come colla. Io sono il vento, lo sai. Seguimi e non ti pentirai. Bellissimo. Grande Paolo, perché ti dico, io ricevo, non sto scherzando, non voglio fare la bulla, però io ricevo all'anno circa un centinaio, anche di più, di proposte di collaborazione, pur da cantautrice come interprete, ma magari mi arrivano cose anche belle, però non in linea con non quello che fa, dico ma che cacchio canto. Invece quando lui mi ha inviato la bozza di questo brano, che era anche abbozzato, poi tra l'altro cantato da lui, che lui non è un cantante, e ho detto ma questo brano comunque c'ha qualcosa effettivamente potrei aggiungerlo, e quindi ho accettato dopo. Fantastico. Perché ha questo beat che un po' parte e ti coinvolge comunque. Hai capito? Guarda, io ci tengo al parere di Mia, perché vabbè, te t'ho già conquistato. Vabbè, lei hai è la presto. Prima volta che mi vede, ma ascolta. No, infatti. Grazie. Davvero. Quindi io sono contenta, volevate sapere la storia. Sì, vogliamo sapere la storia, assolutamente. Quella, ecco, già mi aveva affascinato un po' il testo così. E, anche il titolo Vento. Vento, esatto. Bello. Ma sai che allora praticamente questa storia racconterebbe che cos'è appunto il vento per chi l'ha scritta, cioè sarebbe il sentimento che prova un fan che si innamora, di fatto che si infatua della sua artista preferita, cioè lui va ad un live, lei lo guarda, insomma succede qualcosa per cui certo. Lui pensa che forse lei possa provare qualcosa per lui, ma scatta chi lo la sa scintilla. E quindi però lui si rende conto che questo, appunto lui dice all'inizio, no, che non è un nome, non è amore, non è venerazione, cioè che cos'è questo sentimento travolgente che probabilmente lo porterà a fare anche delle cose, quindi non sapendo non dare un nome chissà, questo è un segreto anche di Paolo. Okay. Se no l'amorosa lo lascia, poi insomma no, mi vabbè. Sa no, sto scherzando, poi io sono molto ironica, però tra l'altro io non so per chi l'abbia scritto, non credo di essere io quell'artista, però io ho magari dei fan che possono essere innamorati di me perché sta roba succede, o infatuati, insomma. Certo. Infatti sappiate che ogni tanto alcune cose vanno tenute nascoste. E però ecco, questa quindi è una canzone di fatto per i fan, per quei fan che magari si infatuano del loro artista preferito e hanno questo sentimento che non sanno, a cui non sanno dare nome, allora lui lo chiama vento. molto Sturmundrang. Vedi? Molto. È bella sta cosa. È vero che è bella? Sì, sì. Infatti l'ho dedicata ai miei fan, a quelli più ventosi. Quelli più ossessionati. Sì, sì. Tu, ventosi nel senso che ti si mettono a ventosa. Ventosi fa un po' impressione, scusa, ventosi. No, nel senso che ti si mettono a ventosa e non ti mollano più. Ce ne sono alcuni ossessivi. Tipo le telline del mare. Quanti ne hai di ossessivi compulsivi? Tipo Marco Roma. Ma sai, la compulsione avviene quando non riesci a dominare qualcosa, quindi è la cosa che ti domina. Beh, ce ne sono un po' se ti fanno ossessivi, sì. Poi io spero, cioè a me non è che l'ossessione, io spero che loro stiano bene con questo sentimento, perché certo. Io sai, è il mio lavoro, l'artista, poi oggi tocca non definirsi artisti perché se uno lo usa anche gergale, no? L'artista pare che ti autodefinisci Leonardo da Vinci, no scusate. No, non anche è che... perché dopo con la pesce no, di se Martino, no ti dicono bravo, perché poi i commenti sono anche sotto, ma chi questi si definiscono artisti? No, scusate, lo uso... artista da contratto. L'unico artista, no? Di Bologna è Fricantoni, dai, adesso possiamo dirlo, anche perché poi quando non ci sono più la parola artista pare essere giusta quando uno è morto, se la usi prima no, però io la uso da contratto, cioè l'artista è quello che fa una prestazione, non la uso nel senso di Da Vinci, di Michelangelo, di capito? Oh, io stavo pensando a Masotti come unico artista. Ma Maso, lo salutiamo. Come unico artista di Bologna, poi hai detto che... Hai capito? Che sono morti. Allora glielo riferirò che l'abbiamo nominato anche qua, dai. Grande Danilo Masotti, che devo dire che mi tira sempre sul morale. Io mi imbatto nei suoi post di Facebook. Diciamo, lui ci tiene a dire che lui che ha inventato il termine umarel, quindi lo salutiamo, perché poi cercano di spodestargliela un po' questa paternità. No, certo. Cioè, di sicuro se ne stanno appropriando come succede sul sesso a Sanremo con Pensati Libera. E visto no? che conosco anche l'editore, che è anche il mio editore. È vero, tutti Antonio Bagnoli, salutiamo anche Bagnoli, perché anche lui come editore degli umarel è in qualche modo, si sente giustamente anche lui un po' detentore di questa... Ma nel libro della Crusca umarel l'hanno messo già, chissà. Però so che ne ha parlato anche il New York Times. Fatto sta che comunque l'invidia dei bolognesi dice che l'unico artista bolognese in assoluto è Masotti. Hai capito? Ragazzi, ma tanto di cappello. Infatti, anche perché lui c'ha un sacco di haters. Tu ce le hai gli haters? Allora, fortunatamente sarà che ho questa. Allora, la frecciatina mi arriva, ma dipende più che altro da cosa, di che cosa parli. Cioè, se tu ti esponi parlando degli altri, dando un parere sugli altri, su una questione sociale, arrivano. Siccome Masotti alla fine parla di cose sociali, della città, di quello, tra l'altro lui lo fa in un modo che in realtà è un prendere posizione senza prenderla, però ognuno gli appioppa quella che vede su di lui. Se tu prendi una posizione su qualcosa arrivano gli hater, se tu parli di te e fai delle cose, no, che stanno, io sono abbastanza misurata, alla fine sono un po' rinascimentale, quindi l'hater la tiro meno. Però vedi, ad esempio, quest'anno mi ero permessa di dire che saremmo forse, per essere faccia cagare, un programma neanche un programma di un certo tipo, che non dico adesso il pudo, io non è che sono una bacchettona, però magari dai, c'è un pubblico anche di anziani, di bambini, certe cose. E qualcuno non ha detto, si proprio dà tu di lingua tra maschi a Sanremo, proprio tu, dai, che hai le scarpe da mistress, stai offendendo la tua intelligenza. Infatti, eccola, era lì il carro armato. E quindi l'hater subito si è manifestato. Ma se tu non dici niente, non critichi mai niente, magari, però se esisti. Ma se, una domanda: gli hater fuori dai social sono quelli che in macchina, sì, perché c'è la pubblicità. Sono quelli che in macchina ti dicono, cioè l'hater nella vita fuori dai social sono gli autisti ai semafori gialli? Quelli che suonano? Sì. Sì. No, quelli sono gli sclerati, secondo me. Esatto, mi associo. In casa tua, associati subito. Sono Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale. In realtà è Giancarlo Norese che fa finta di essere Cesare Pietro Iusti. Grande Gianc. Ma questo è sempre Coxo Spaziale davvero. Siamo alla 438esima puntata e abbiamo di nuovo con noi Roberta Giallo, che deve decidere se cantarci un pezzo dal vivo oppure live. Tacere per sé. Live. Vabbè, no, questa vabbè. Posizione live. Anche di comunque ce l'hai ancora qualche brano, sì, che ti ho mandato registrare. Volete già live? No, vuoi rilassarti un attimo? Io mi ancora mi cioè così bello stare rilassata. prometto che lo faccio, eh. Okay. Non, brano, no, anche perché però... abbiamo anche l'angolo della menzione, che vabbè, dura poco comunque. Ma allora facciamo che cosa ci fai allora, ascoltare? Io canterei, guarda, siccome è ancora inverno, se no tra un po' scatta la primavera, sì. Vi farei ascoltare Io canto l'estate. Ecco, questo è un brano mio da cantatrice con cui ho vinto anche il premio Dino Campana, la prima edizione del premio Dino Campana in musica. Che cos'è? No, beh, mi chiedevo com'era fatto il premio. No, in il premio è stato un premio fortunatamente, cioè, anche pecuniario, no, perché a Sanremo, perché... ah, grande. Ma non ti danno la statuetta, ancora, cioè, no, la statuetta non è fatta. Hanno dato in realtà una medaglia. Ah, no, potevano effettivamente farla, cioè, però era carino. Il premio Dino Campana, mi è venuto, sei immaginato una campanona. No, mi è venuto in mente il premio di Sanremo, certo, con le due palme che fa schifissimo. No, allora proprio, questo no, questo premio peraltro Dino Campana Canti Orfici, proprio la più grande opera del poeta Dino Campana, e io mi sono ispirata tra l'altro in parte a questa, cioè alla storia dei Canti Orfici, perché lui poi gli smarrirono quel manoscritto. Pensa che dolore assurdo, Madonna, per un poeta, infatti, in cui in quel manoscritto ripone un sacco di roba e glielo smarrì la casa editrice, diciamo così. Quindi io sono partita da lì, da dove vanno i ricordi quando non li ricordi, c'è questa frase nella canzone, ma Io canto l'estate è un po' un manifesto del cercare un po', appunto, certo, Di André lo fece già, i fiori nell'etame, insomma il senso è quello. Poi tanti, c'è anche Gesù Cristo, forse ci saranno paraboli in cui tu devi cercare, insomma, ma il bello. Io su Spotify non l'ho trovato, io... Gesù Cristo. Perché no, sicuramente, beh, di grande ispirazione, devo dire, per me lo è Gesù Cristo, nel senso, no? Vabbè, ah, un musical mica da ragazzi, Jesus Christ Superstar, ma lo è anche ormai di questi tempi, insomma, veramente. No, in effetti potrebbe anche tornare di moda, potrebbe, quello che diceva, secondo me, Gesù, sì, Cristo. In no, perché questa canzone la sento un po' così, cioè nel senso, cercare comunque la luce nelle tenebre, è sempre un po' questo, no? Io canto l'estate nel pieno dell'inverno, dice questa. E dunque la facciamo partire ed ascoltatela. È la numero due. Allora, secondo me è bravo, allora, te l'ho scritto, aspetta, no? No, ah, cavoli, me l'hai scritto, però io l'ho in no, però te lo dico, aspetta, io. No, eh? No, ma se me l'hai scritto, lo c'ho. Ma le che vanne parte un'altra, dai, non sarà grave. Sì, proviamo, sì, proviamo questo miracolo. Sì. Questo è l'ultimo singolo che è uscito quest'estate mio, questo invece è mio testo e musica. Grande, sentiamolo. Cos'è da tenere? Cos'è da buttare? Non me lo dice la televisione. E la tradizione non è più cosa certa. La sua coperta è sempre più corta. Chi sei tu? Chi sei? Quello che poi dimenticherai. Chi sei stato mai? Chi sarai? Se a queste domande non risponderai. Dove vanno i ricordi quando non li ricordi? Forse migrano altrove dove c'è il sole. Lo sai, la tristezza ha un colore profondo. E le acque del tempo compongono il mare. Dove scappare se ti hanno vuotato ogni cassetto d'amore, denaro e di sogni? Ti aspetto coraggio, speranza, m'ascolti. Io canto l'estate nel pieno dell'inverno. Io canto l'estate nel pieno dell'inverno. E indosso un sorriso ogni singolo giorno. Io che pianto le rose su questo cemento, perché amato mio prego ogni momento. Sì, io pianterò rose su questo cemento, perché amato mio prego ogni momento. Ulisse non torna, l'assurdo trionfa. Qui ovunque regna la contraddizione. Notizie a sinistra, notizie più a destra, ma nessuna vista, non c'è un testimone. Solo l'amore, anche se non risponde, ci abbraccia e ci infonde purezza di intenti e forza d'agire, perché questo fango possa scomparire. Io canto l'estate nel pieno dell'inverno. Io canto l'estate nel pieno dell'inverno. E indosso un sorriso ogni singolo giorno. Io che pianterò rose su questo cemento, perché amato mio prego ogni momento. Sì, io pianterò rose su questo cemento, perché amato mio prego ogni momento. Una favola mi sveglio e anche con niente sorrido lo stesso. Vedo, ascolto e ti accarezzo. Son vivo ancora se sogno e se penso. Da una favola mi sveglio e anche con niente sorrido lo stesso. Vedo, ascolto e ti accarezzo. vedi che c'entra un po' Gesù Cristo? Hai capito. Perché a modo mio prego ogni momento, quindi... Io canto l'estate. Bellissima. Ma hai scritto quindi sia la musica che composto il testo? Sì, io tendenzialmente scrivo sia musica che testo. Come dicevo, Vento rappresenta un'eccezione. Anzi, quest'anno ci sono state due eccezioni. Per dover di cronaca, credo sia stato vostro ospite. Io non c'ero. Non so se proprio qui. Ah, se non c'eri tu, non c'ero neanche io. No, però forse non so se proprio a Coxo Spaziale Radio Fujiko. Anche Tiz Bononcini, altro cantautore bolognese, che è riuscito a coinvolgermi in un suo brano. Questo è stato anche l'anno del featuring. Ah, il brano si chiama Biscotti. Biscotti. E parla di una Rossella storia Biscotti, vera. Motivo per cui accettate, era bella anche la storia dietro. Su Spotify, Tiz Bononcini feat. Roberto Giallo, dove praticamente lui era ossessionato da questi biscotti. Era un po', insomma, il compagno pesante che imponeva un sacco di cose. Infatti, lei, quando lui un giorno era al lavoro, così come dicono nel ritornello, mentre eri al lavoro vuota è casa, perché, e lei se ne va, e così finalmente non sarà più obbligata a mangiare i biscotti, sempre quelli, tutte le domeniche mattina. Insomma, c'era questa ossessione, vedi, anche lì dietro di biscotti. Esatto. Interessante. Stai per metterla? Biscotti? No, non sto per mettere biscotti. No, l'angolo della menzione. Per questa, infatti. L'angolo della menzione. Te la ricordi? Come non me la ricordo? Perché lei ha fatto da co-conduttrice a Fedra per un mese, giusto? No, hai fatto un mese. Forse, sì, quattro puntate. Sì, come cliscia, poi continuo... per mezza cliscia. Ah, è vero. Io aspetto Fedra, se ci senti, non vedo l'ora di conoscerti, ti prego, vieni. Fedra non riascoltava mai niente, ecco. Per cui sappi che non ci sta ascoltando, cioè proprio ne ho la certezza assoluta. Fatto sta che comunque mercoledì 22 febbraio alle ore 11, per cominciare la settimana mattiniera, inaugura Il profumo dei fiori dipinti, a cura di Sandro Malossini, una collettiva di pittura con un sacco di nomi importanti, tra cui Aldo Borgonzoni, Norma Mascellani, Ilario Rossi, Piero Manai, Carlo Mastronardi, Concetto Pozzati, solo per citare i più famosi. Quelli non famosi invece li citiamo lo stesso, che sono Leonardo Santoli. Ma poi bella questa cosa delle rose che tornano, vedi, tornate nella mia canzone, io pianto le rose dopo Blanco che le ha distrutte, c'è chi le dipinge, eccetera. Questo è all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro 50 a Bologna, ed è appunto mercoledì 22 febbraio, e loro inaugurano alle 11, perché dopo a Sva Manier. Ops, ho sbagliato lo stacco. Succede. Sembrava perfetto lo stesso. Infatti, però ti dico. Vabbè, ma quando si coxa, si coxa. Poi, sempre mercoledì. Brava. 22 febbraio alle ore 21 invece Viaggi di ritorno, cinema, fotografia e filosofia, una serata attorno alla mostra Cinema Interiore di Simone Martinetto, e con l'artista Maria Chiara Wang, curatrice della mostra, Francesco Cattaneo, docente di estetica presso Unibo, Guido Michelotti, direttore della fotografia, e Sara Cavani, script supervisor. Studio Cenacchi, arte contemporanea, in via Santo Stefano 63, Bologna. Poi abbiamo finito praticamente, sono arrivati sul territorio e sono in fase di insediamento nelle rispettive sedi dei 6 distretti culturali dell'area metropolitana di Bologna le artiste e gli artisti selezionati con l'avviso pubblico per il nuovo Forno del Pane Outdoor Edition, e sono Lorena Bucur, che va al distretto culturale Pianura Ovest di San Giovanni Persiceto, Beatrice Favaretto, che va al distretto culturale Reno Lavino Samoggia a Casalecchio di Reno, Montagnola di Mezzo, Valentina Furian, che va al distretto culturale Savana Idice a San Lazzaro di Savana, a Ten Lies e a Capanown. Poi abbiamo Giorgia Lolli, che va a Pianura Est, Budrio, Le Torri dell'Acqua, Lorenzo Modica, che va al distretto culturale Appennino Bolognese, Castiglione dei Pepoli, municipio di Castiglione dei Pepoli, e Davide Sgambaro, che da Padova va al distretto culturale Imolese, Imola Centro d'Arte Novella Guerra. E per adesso potete andare a trovare tutto su questi nuovi artisti che sono approdati a Bologna su www.museibologna.it, ma poi con calma li andremo a intervistare tutti, perché sono solo 6, anche se io a Castiglione dei Pepoli sappiate che non ci vado. E per finire cosa ci manca? Il 23 febbraio, cavoli, vero? Dimenticato, grande. Hai visto? Grande. Il 23 febbraio dalle 18 alle 21, a cura di Irene Biolchini, a AF Gallery in via dei Bersaglieri 5/E. Memorie per Dopodomani con Stefano Arienti, Sergio Avveduti, Vincenzo Cabiati, Manuela Cirino, Daniela De Lorenzo, Mario Della Vedova, Luca Pancrazzi e Italo Zuffi. Voilà. Bisogna dire a quelli di AF Gallery di mettermi nella mailing list, perché se lo scopro da Instagram è un casino. Ma torniamo alla nostra Roberta, che adesso... No, stavo pensando, peccato che non possa andare, perché se no a qualche mostra era interessante andare. Vedi, quella, certo, del 22. Ma durante l'Art Week sei riuscita a vedere qualcosa? Tu sai che non c'ero. Ah, ecco, dove eri? In Bolivia stavolta? Guarda, no? No, Secret niente, in giro da qualche parte per l'Italia. Ho capito. Tra poco sarò in Svizzera però, bella Svizzera. La Svizzera. Anzi, qualcosa potremmo dirlo, dai, più avanti, dai. Me lo direi tu. Certo. Devo dire qualcosa che sto facendo, qualcosa sì, in arrivo. Cosa stai facendo? Sì. Cosa stai facendo? Sto confabulando. Cosa bolle in pentola? Allora, intanto, 24 parto per Macerata, mm-hmm, e starò fino al 6 marzo là in giuria Musicultura. Ah, grande. Onorata, terzo anno consecutivo. Fantastico. Veramente bello ascoltare tutte queste proposte. Certo. Quindi è bellissimo. E poi però il 4 marzo sarò a Lugano. A Lugano. Perché sono stata invitata dalla TV Svizzera, RSI, per omaggiare Lucio Dalla. Grande. Quindi sarò in questo bellissimo auditorium, e sarà però un po' faticoso perché da Macerata vai a Lugano, ritorni, poi ritornerò per l'ultimo giorno da audizioni, e questo già sono due cose. Poi okay, sta per uscire invece un brano di una mia collega, di una cantautrice, mm-hmm, che saluto, di Orà, mm-hmm, che io questa volta ho prodotto, quindi mancava la veste di produttrice. Quello mancava, infatti. Ho prodotto insieme a Enrico Dolcetto, che saluto, poi le direzione esecutiva, insomma, Sara Lauricella, quindi questa squadra un po' di donne, ma mista anche di uomini, quindi aspettatevi, perché magari ve lo manderò poi anche. No, ma infatti io quello volevo come promessa, me lo mandi che lo suono. Ti manderò le cose che ti, certo, devo mandare. Qui in questo caso però produttrice, quindi lei l'ha scritto, io ho messo qualche pennellata anche lì nel testo di Giallo, qualcosa nella musica, però insomma il brano è di Diorà, mm-hmm, e io l'ho prodotto, l'ho arrangiato, ecco. Altrimenti dai la mia email al vostro ufficio stampa, che diventa anche tutto molto più semplice. Anche sì, infatti, esatto. Anzi, volentieri. Se c'è un ufficio stampa all'ascolto, la mia email è stefpq@gmail.com. Super. Vedi, quindi tra le news è bello ricevere pezzi nuovi. Sta arrivando qualcosa. Non sentivo questo rumore da un sacco di tempo. Ma infatti di solito non si sente. No, strano, è l'alieno che sta arrivando. Sai che cosa sta arrivando? Sta arrivando un pezzo dal vivo suonato da Roberta. Ah, è vero, questa l'avevo promessa. Allora vediamo. Vai. Se tu non ti accorgerai di me. Intanto vi dico il titolo, scusate, di Luce Propria. Qui proprio ritorno alle origini, è il primo EP che ho pubblicato. Se tu non ti accorgerai di me, saprò come farmi da parte. Se tu non ti accorgerai di me, saprò rispettare le distanze. E lontano da te io vivrò finalmente in pace, in ombra nel silenzio che tace. Riuscirò a brillare di luce propria. Oh oh oh oh, di luce propria, oh oh oh oh, di luce propria, oh oh oh oh, di luce propria. Se tu non vorrai leggere in me, saprò come chiudere le pagine. Se ti infastidirà presenza, avrai in dono la mia assenza. E lontano da te io vivrò finalmente in pace, in ombra nel silenzio che tace. Riuscirò a brillare di luce propria, oh, di luce luce propria, oh oh oh oh, di luce propria. Libera le farfalle che hai catturato, se vorrai che tornino a volare. Libera le lucciole che hai in mano, se vorrai che tornino a brillare. Di luce propria, oh oh oh oh, di luce propria, oh oh oh oh, di luce propria, oh oh oh oh, di luce propria. Accorgerai di me, saprò come farmi da parte. Se tu non ti accorgerai di me, io tornerò a brillare. Thank you very much, ladies and gentlemen. Da tanto che non cantavo questa canzone. È un live, è sempre un live. Fantastico. Mi è piaciuto, grazie, bello, ragazzi. Bello, bello, bello. Ad occhi chiusi l'ho cantata, vedi qui, cercando la luce interiore. Grazie. Grazie. Grazie. È fantastico sentirti dal vivo. Di luce propria, di luce propria. Anche il titolo sia dell'EP che troveranno su Spotify più giovani e anche il titolo di questa canzone. E chi non ha Spotify dove deve andare? Beh, c'è anche su YouTube per i boomer che trovano anche lì. E non ha videoclip, tra l'altro, questa canzone, quindi esiste solo di luce traccia. Propria. Yes. Bella. Grazie. Quando l'hai scritta? Questa, ragazzi, io sembro molto giovane, ma comincio ad avere un'età da signora. E l'ho scritta, parliamo allora nel 2014 è uscito il brano, ma comunque l'avevo scritto prima. Quindi secondo me forse l'ho scritta nel 2009, forse anche prima. Quindi comincia a avere quanti anni? Mettiamo dai, per arrotondare, che io l'abbia scritta nel 2010. 13 anni, già 13 dai, anni. Una ragazza. Una ragazza. Una ragazza che sta diventando donna a 13 anni, vedi? Ah sì. Bello. Bello, bello, bello. Sì, poi con l'ukulele ci sta di brutto. Vero? Sì, perché sì, questa sì. Lucina, appunto, qualcosa di piccolo che però splende, no? Ci sta. Beh, c'era l'atmosfera poi qui dentro, devo dire che l'ho cantata. Vero? Ah, sì. Ma qua dentro si sente bene la musica dal vivo. Mi sentivo anch'io bene. Sì. Bella anche per me, guarda, me la andrò a riascoltare. Poi, anzi, se la tagliate, certo. Magari me la metto su YouTube con una bella foto. Esatto. Live a Radio Fujiko. Infatti, bellissimo, ci sta. Così gli dai un volto, sì, la riattualizzi. Senti, ma invece questi 5 schiaffi e una carezza le hai presi davvero oppure no? Ma il 5 schiaffi e una carezza, ti dico la verità, è che quando si è giovani, perché io sono ancora giovane, adesso certo. Non è che si devono immaginare la vecchina infatti, con i capelli bianchi. Appunto. Però insomma non ho 20 anni, no? No, infatti uno mi ha scritto cioè quando io ho ripubblicato il video che hai fatto te, mi hanno risposto chi è quella gnocca, per cui hai capito? No, ma mi difendo bene, appunto, però non ho 20 anni, no? No, e non ne ho neanche 30 spaccati. No, ma guarda, lo dico con grande gioia, ho appena compiuto 40 anni in realtà. Ah cavoli, li ho compiuti a New York. Non, non me li danno, non me li dà nessuno. No. Però non ne faccio mistero, perché poi credo che sia anche arrivato il momento di aiutare proprio quelle donne che vivono l'età come un problema, un complesso, sia nel lavoro che nella vita, no? Sai, con gli uomini, addirittura ci sarebbe il detto che dopo i 23 anni, no? I più veramente, addirittura, no? Addirittura, dopo i 23 anni. Addirittura, nello squallore di qualche bar, sì, cioè no, che beh, si dice infatti. 23 anni un giorno, no? Una è già vecchia. Ah, io invece no, credo che... Poi, anche a me mancava. C'è. Comunque, sì, in qualche osteria bolognese anche l'ho raccolta questa cosa, okay. Ma al di là di quello, io credo che... A parte che il Capricorno ringiovanisce invecchiando, detto, ma credo che questa sia una grande bufala, cioè nel senso oggi come oggi, soprattutto io mi difendo bene. Ma assolutamente no, ecco, ve lo dico, Pasquini è un gran bell'uomo. Ah, vedi? Sappiatelo. Ah, eccolo. Pasquini, ragazze, uomini e donne, perché ormai si piace sia agli uomini che alle donne, certo. I non definiti. È comunque esteticamente parlando, qui siamo tutti belli. Stefano Pasquini, in effetti, ci mia anche una bellissima ragazza. Io anche se Stefano dice che non sono fotogenica. Sei molto più bella dal vivo. Che comunque è un valore aggiunto. Una donna nasconde a volte l'età. Io invece penso che non vada nascosta. Anzi, no, per niente. Uno ti vede e dice: vedi, a 40 anni, caspita, uno può essere, può ancora essere, infatti, come ha definito il ragazzo. Una chi l'ha detto? Gnocca. Come si chiama? È una gran gnocca. Anzi, secondo me posso dire a 20 anni belli tutti. E più cresci invece. Sì, no, infatti. Più cresci invece. Invece secondo me la bellezza si fa interessante, si fa anche fascino, si fa saper fare. Ti impari anche a valorizzare, secondo me, se non sei, ecco. Però di schiaffi ne avevo presi tanti, adesso magari li prendo uguale ma non li sento. 5 schiaffi e una carezza, ma anche no. Che colpa ne ho? Se non produco denaro, ma mi piace guardare lontano. Che colpa ne ho? Se il mio non è certo un lavoro, che adesso mi rende dell'oro. La colpa che ho, non l'ho. Se mi nutro di spirito, se amo vivere in bilico, tra la bellezza e l'amore. Schiaffi e una carezza. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Che colpa ne ho se non riesco a mentire per convincere che vado bene per lavorare. Che colpa ne ho se mi piace spendere il tempo studiando la noia e il tormento e magari scriverci su. Ma nessuno ormai paga più. Per noi tristi di spirito, è per questo che vivo in bilico, tra la bellezza e l'amarezza. Prendo 5 schiaffi e una carezza. Vivo bene così, solo così. No, no, no, no, non è facile convincere gli altri. Ma se non vivessi così, io morirei rinunciando ad essere me. Rinunciando ad essere me, non lo farei neanche per te. Anche bella anche questa, grazie, anche questa. L'applauso vedo la registrazione. Applaudo anche alla registrazione, come quelli facciamo che applaudono al cinema. Ecco, applaudiamo dai anche Valentino Corvino che ha arrangiato qua il quartetto d'archi. Ah, vedi? Sul brano. Anzi, lo salutiamo. Ciao, salutiamo Valentino, maestro. Maestro. Ti aspettiamo a Coxo Spaziale. Vieni col violino. Perché, sì. Anzi, vi posso dire questa cosa, Valentino Corvino mi aveva invitata a Bologna il 4 marzo al Manzoni perché avrei cantato anch'io tra gli artisti che omaggeranno Lucio Dalla. Solo che io devo andare in Svizzera, quindi mi è toccato dare il pacco addirittura al Teatro Manzoni. Pensa che, quando troppo, però ci saranno Valentino Corvino a dirigere l'orchestra, Pacoda, caro Pacoda Pierfrancesco che presenterà la serata, e poi tanti artisti di Phonoprint. Io però non ci sarò, però vedi, ho fatto anch'io una menzione. 4 marzo al Manzoni ci sarà un bel omaggio a Lucio Dalla. Fai lo stacchetto. Roberta Giallo doveva esserci, non ci sarà, però ci saranno, insomma, fior fior di. Ecco, grande. Qua sta finendo il tempo, come siamo messi? Cose importanti da dire. Ecco che sto anche lavorando a una colonna sonora di un film. Tra le varie, appunto, mi piace. E poi niente, ragazzi, concerti, spettacoli. Io dico sempre: seguitemi sui social, certo. Che sia Instagram, Facebook, Roberta Gialla, anche un nome semplice da ricordare. Infatti. Io non so neanche più, guarda, quando mi si dice cosa stai facendo, siccome faccio più cose contemporaneamente, o sei proprio in promozione con qualcosa, se no diventa, ve l'ho già detto, concerti, spettacoli. Sto lavorando al nuovo disco comunque. Ah, ecco. Quello anche, insomma. Hai già il titolo del nuovo disco? Adesso quello te che lo do mi... io, te lo do io. Addirittura? No, ce l'avrei, no, in realtà, scherzo. Però no, perché no? Però devo capire la strategia della nascita, diciamo così, come metterlo fuori. Perché è importante anche come metti fuori, come le fai nascere, no? Ho capito. Quando arriva la cosa giusta, non avrai lo dubbi. Lo senti? Esatto, devo capire, ma forse non è ancora il momento perché sono troppe cose, quindi aspetto troppi anche un dubbi. Po' di vuoto per mettere fuori questa cosa qua. Crei un po' di silenzio. Detto questo... Grazie mille Roberta Giallo, ma ti dobbiamo salutare perché qua il tempo è tiranno. Come grazie sai, a voi e salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito e ci seguiranno. E ci seguiranno e salutiamo. Li salutiamo con 5 schiaffi e una carezza. Con 5 schiaffi e una carezza e non solo, con anche le parole dolcissime del solito nostro fantastico direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E la sigla è... la canzone che mi è piaciuta di più di Sanremo, non so quale era, adesso non la riconosco, ma cosa essere veri è piaciuta male. Quando io sono romanticone in fondo Capricorno però questi sono romantici metropolitani quindi c'hanno poi infatti. Quel miele nero e dunque io come al solito ero Mia da Schio su Piei e io ero Stefano W. Pasquini e questa era speciale Roberta Giallo di ciao Fox a tutti, viva i Comacose in chiusura certo, grazie a te, grazie a voi, ciao, un bacio, ciao ciao, ciao. Lo sai che mi è piaciuto anche caderci, sì però mica puoi toccare il fondo. Magari è solo questa vita strana, con le valigie sempre mezze fatte. Magari è solo che ci si allontana, se si vuole ciò che si combatte. E l'addio non è una possibilità. E forse arriverà davvero il giorno in cui diventerai solo un ricordo, o ce ne andremo via come uno stormo.